Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9:07 minuti, che bello lunedì iniziare una nuova settimana di Funamboli con Peter Bescapè in regia. Lì a Roma c'è Alessandro Chiappini? In questo momento ci sono entrambi, però sì. Anche Valerio Rocchetti, mandatelo via per favore. No, guarda, ti stanno facendo dei segni con la mano, io non capisco. Valerio in particolare. Cross, Icardi tocca, come sempre, e non sbaglia. Ci sono delle interferenze, una non capisco cosa succede. Una domenica serena, una domenica tranquilla. Non capisco che sta succedendo. Tra l'altro a me Icardi non sono mai piaciuti perché sono troppo amari. Hai una voce un po' strana oggi. Destro! Allora, già questo è costato il posto a Elisa Pancaldi qui in redazione Funamboli, perché tra l'altro era brava, a me dispiace perché lavorava con noi. Ma scusami, che ha fatto Elisa? Non capisco. È stata licenziata ieri, essendo interista. Ma perché? Che ha fatto? È interista. E non ti basta? Quindi è stata licenziata. Ho chiamato subito il direttore personale. No, ma io vi sento tutti molto nervosi oggi. Mi spieghi cosa è successo ieri? Che hai fatto? Che cosa c'è stato? È stata una domenica tranquilla, serena, propedeutica a una nuova settimana dei Funamboli. Pensa che io ieri mi sono letta invece tutta la riscrittura contemporanea di Madame Bovary, che è ambientata in Argentina, con questa protagonista femminile che si chiama Wanda Nara. Ed è bella, c'è tutta questa storia di lei che si innamora di questo personaggio che è un po' un tenebroso, più giovane di lei, che si chiama Icardi. Che nome praticamente... strano, guarda. Anche io l'ho trovato un nome bizzarro, però devo dirti, guarda, che l'idea di ambientare Madame Bovary in Argentina, poi tutto in un contesto sportivo. Di cognome? Icardi è il Icardi, nome? No, credo sia un nome d'arte, sarà. Sei veramente, siete veramente una massa. Arriva Insigne, ancora, Insigne, tiro a rete! Questo è dedicato a Valerio Rocchetti, lui sa. Se la ride si sta sentendo male. Lui sa. Comunque, io voglio dirti che io avevo proposto di fare una riunione alle 20:45 con i vertici della radio. Non interessa, non fare finta adesso che sei appassionata di calcio, non ti interessa. Io avevo proposto per salvarti di fare una riunione con i vertici della radio invece di farti guardare il derby, ma tu hai voluto prendere a craniate. Vabbè. È finita così. Mi sono fatto male, anche stavolta. No. Allora, signori, sono le 9:09 minuti, va bene, è andata così. Salutiamo anche Oscar Giannino, che con il suo Torino ha pareggiato a Crotone in zona Cesarini. Grande risultato del Torino. La togliete per favore questa sigla? Sfumala delicatamente per evitare che io spacchi un microfono. Grazie. Adesso senti come... Però ci vuole un po' di aplomb, bisogna saper perdere. Su. No, va bene. Sportivo. Sì. Non sei sportivo. Dalla regia mi fanno: ma che sportivo? Ma anche ieri al 90° avevo la sensazione che stessimo giocando contro la Juve. Questa poi te la spiego più tardi. Adesso non mi far spremere le meningi eccessivamente. Lo sai che te la spiego più tardi. Ho avuto questo déjà vu strano. Te la spiego dopo questa, in separata sede. Fatela spiegare da Valerio Rocchetti. Lui la sa spiegare molto bene. Ho paura. Allora. Temo che non andremo avanti oggi. No, andremo avanti assolutamente. Dalle 9:10 minuti dobbiamo raccontare tantissime cose. Ho salutato anche Elisa Pancaldi, la salutiamo, grazie, ha lavorato molto bene con noi, licenziata in quanto interista. Salutiamo anche Lorenzo Nespoli in redazione e Elisabetta Fusconi. E siamo pronti, cara Veronica, A dire che io mi ero abituata a Elisa, mi sembrava così carina, stavamo tanto bene. Ma avevo questo difettuccio, che vuoi fare? Adesso la mandiamo in una clinica in Svizzera, una settimana guarisce, torna e forse la riassumiamo. Dai. E sarà del Milan dopo? Dobbiamo partire, su. Eccola lì che canta. T'ho beccato, è lunedì, ricordati. Però hai sentito, piano piano lo facevo per non farmi sentire. Sono le 9:11 minuti, diamo subito i numeri di telefono. Io do il numero verde per chiamare, 800 24 00 24. Mentre per mandare gli sms e i vostri whatsapp, 349 238 6666. Allora, siccome ho perso il derby, oggi partiamo parlando di tasse. Così ve la beccate tutta, cari ascoltatori. Tasse. Dici, metti che loro avessero vinto ieri sera, dagli subito un bel colpo sugli stinchi e via. Via. Allora, perché parliamo di tasse? Vi vogliamo porre questa domanda. Cari ascoltatori, ma se Veronica Gentili, eccola là, non dovesse pagare le tasse, no? Perché è distratta, eccetera. Voi vorreste che il suo nome venisse pubblicato in maniera, come dire, che tutti possano sapere: Veronica Gentili non paga le tasse? Tradotto, voi vorreste che Veronica Gentili venisse messa alla gogna? Perché un po' di questo si parla. Un po' di gogna lo è, però è quello che un sindaco vorrebbe fare. È il sindaco di Massarosa, provincia di Lucca. Il sindaco è Franco Mungai. Buongiorno e grazie. Buongiorno di essere qui. A tutti gli ascoltatori. Allora, Massarosa quanti abitanti fa? Tanto perché... 23.000 abitanti. 23.000 circa. Abitanti. Lei si è trovato in una situazione per cui su un bilancio di 18 milioni ce ne sono 14 da riscuotere. Esatto, mannaggia. Esatto. Questa è una situazione che si protrae già da alcuni anni e quindi bisogna trovare un rimedio per risolvere in maniera definitiva quella che è ormai una carenza che ci implica di dover rimandare le spese, di fare la manutenzione con puntualità, sì. E non possiamo lavorare. Vabbè, rimedio, sì. Un'azienda, è che saremmo già falliti. Sì. Quindi questa che ha pensato lei, sindaco, è l'estrema proprio ratio dopo tutti i tentativi fatti, perché... Sì. Perché lei le ha tentate tutte? Ne abbiamo fatte tantissime, perché dal fermi amministrativi alle macchine ne abbiamo fermati un migliaio, quindi... Vediamola qual è l'estrema ratio, perché la sottoponiamo anche ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24. Che ne pensate? Cioè, il sindaco vorrebbe pubblicare i nomi dei cittadini suoi che non pagano le tasse. Ma allora, pubblicarli dove, sindaco? Esatto. Ci spieghi bene che scheda vuole fare? All'alba petrolio del pretorio, pretorio del comune, dove si possa leggere tranquillamente quelli che sono i cittadini che non sono puntuali. Ma io non mi riferisco. È stupenda questa, cioè uno va lì, c'è un'affissione che ho scritto: il signor Pinco Pallino, la signora Pinco Pallino non paga la Tari, non paga la Tasi. Però se lei pensa che sia una misura temibile, perché lo pensa? Cioè, pensa che la gente vada realmente a consultare, che quindi diventi una sorta di marchio? Non voglio pubblicare a tappeto tutti i nominativi. Noi sappiamo che ci sono dei cittadini, perché li conosciamo. Massarosa non è una grande città, sono frazioni e ci conosciamo tutti. Ci sono persone che non pagano le tasse, vanno in ferie o fanno altre cose che non si potrebbero permettere. Cioè, i soldi ce li hanno. Ma i soldi ce li hanno, perché noi abbiamo sempre avuto un bilancio approvato dalle organizzazioni sindacali. Vuol dire che l'attenzione verso le categorie più deboli, quelli che dei disoccupati, che non hanno reddito, l'abbiamo avuta. Quindi non è scontato avere sempre avuto l'approvazione del sindacato sul bilancio. Sì. E sì. In questo caso, quelli che non avevano la possibilità hanno già una protezione. Quindi lei non si sente tirato in causa se le dicono: beh, ma lei dovrebbe essere indulgente in un momento di crisi in cui magari le persone si trovano. In questo senso lei dice: abbiamo fatto dilazioni fino al 2023. Si dice il punto, la misura è colma. Però, quindi lei pensa che sia più la mala fede, cioè la non voglia di pagare le tasse, che non la reale necessità di non. Per questo è straordinario. Cioè, ma pensate, un sindaco che è arrivato al punto di dire: ho capito che alcuni proprio non le vogliono pagare e io pubblico i nomi. Allora, intanto introduciamo un altro ospite. C'è anche un problema di privacy che magari adesso vogliamo affrontare. Certo. Salutiamo però il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario a Trieste. Professor Stevanato, eccoci, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto, che ne pensa dal punto di vista, poi magari la privacy la affrontiamo, ma l'idea di non paghi le tasse e io ti pubblico il nome in modo che la comunità veda, che dice, professore? Dico che prima di tutto non è chiaro se esiste un fondamento normativo per un'operazione di questo tipo, perché le norme che esistono, peraltro relative al settore delle imposte sui redditi, mentre qui, se ho ben capito, parliamo solo di tasse di imposte comunali, però i principi sono probabilmente gli stessi prevedono il segreto d'ufficio di esponenti dell'amministrazione finanziaria o dei comuni, in quanto anche loro hanno ovviamente competenze tributarie, i dati conosciuti nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di accertamento. Sì, dobbiamo dire che già in passato alcuni comuni ci hanno provato, Parma, La Spezia, anche Mulazzo. Oristano vedevo Mulazzo, anche. Oristano, e il garante della privacy è sempre respinto, cioè dice non è una pena accessoria quella della pubblicazione del nome se uno non paga le tasse, ecco professore, questo magari ci può dire. Esatto, quindi c'è un tema di segreto d'ufficio che tutela anche evidentemente la riservatezza dei cittadini e dei contribuenti. Ricordo il precedente poi del 2008 in cui, ricordate, vennero pubblicati su internet i dati redditi, delle dichiarazioni dei redditi. Esatto. Lì ci fu una falla nel sistema, sì, per cui fu visibile per alcuni giorni, alcuni giornali scaricarono tutto. Sì, no, ma era voluto, cioè l'Agenzia delle Entrate aveva inteso un'operazione di trasparenza, sì, probabilmente simile. In quel caso non erano contribuenti evasori o morosi, ma erano semplicemente i redditi dichiarati. Ma in quel caso intervenne il garante per dire che quel tipo di divulgazione erga omnes non era coperta. Solo che il danno era fatto, ormai i giornali avevano ormai pubblicato era tardi. Tutto. Certo, ormai era tardi. Ma perché qui è come se intervenisse una seconda sanzione, come se ci fosse una sanzione sociale oltre al resto. E bisogna chiedersi se proprio dal punto di vista della pena da infliggere alla persona è possibile farlo o meno. No, infatti, perché qui si va evidentemente, ci sono due interessi in conflitto da contemperare, perché esiste in effetti in una certa misura un diritto alla trasparenza e alla conoscibilità dei dati, anche eventualmente fino al limite di chi sono i contribuenti che non assolvono al dovere tributario, dall'altra parte esiste la privacy e la riservatezza di questi soggetti. Però aggiungo un aspetto che non è stato evidenziato, che pubblicando i dati dei contribuenti di cui non si riesce a riscuotere, in qualche modo si dà un'informazione che attiene anche all'inefficienza dell'amministrazione, perché vuol dire che, pensiamo a quello che è successo con Riscossione Sicilia, sì, cioè, elenchi di contribuenti che di cui non si riusciva a riscuotere, ma in tutto questo c'è una disfunzione anche amministrativa, quindi in una certa qual misura. E questo, se da un lato rafforza per certi aspetti l'interesse alla conoscibilità, perché così vengo a sapere quanto è efficiente l'ente pubblico nel riscuotere, dall'altro però non so se è questa l'intenzione del sindaco, perché in questo modo, in qualche modo, è chiaro che l'ente pubblico non è in grado di riscuoterli. Sì, ma un po' di gogna c'è. Però, sindaco, la questione della privacy, perché altri comuni ci hanno provato e non ci sono riusciti. E lei cosa gli ha detto, Soro, il garante della privacy? Autorizzazione. Ora la risposta non l'ho ancora avuta, io spero che questa volta venga data una risposta diversa da quella che tradizionalmente è sempre stata data. Io credo che qui è stato citato come una pena aggiuntiva il fatto di pubblicare i nomi, no? Io credo che sia una questione di giustizia nei confronti di quei cittadini che sono la maggior parte che le tasse le pagano e non possono avere i servizi comunali in maniera, diciamo, migliore, perché c'è questa situazione di insolvenza da parte di qualcuno. Io voglio segnalare questo, ci scrive Gabriella, dice che a Montemurlo Prato sul sito del comune c'è già un elenco di quelli che non pagano e tutti possono vedere chi sono, sindaco. Lo faccia sul sito del comune, cosa devo allora fare? Sul sito, se è possibile, non ho problemi, anzi. Allora, aspettiamo cosa dice il garante della privacy, magari, no? Certo, a Montemurlo lo fanno, non lo so. Possiamo evitare di assumerci noi la responsabilità, forse, no? Per carità, no, io segnalo che un'ascoltatrice dice così, a Montemurlo. Poi saranno felici tutti coloro che stanno per essere messi sull'elenco, Alessandro, così poi vengono da te. Ho capito, ma alcuni, cioè il sindaco ha detto che sono dei furbetti dichiarati, che li conoscete, no? Li conosciamo perché siamo una comunità molto piccola, perché 23.000 abitanti sono pochi, ci conosciamo, praticamente si sa chi sono le persone che non pagano, quindi conosciamo anche le possibilità da un punto di vista economico che hanno, certo. Sindaco, certo. Però quello che diceva Stevanato prima è un'obiezione molto pertinente, cioè in qualche modo pubblicando l'elenco voi dite che non siete stati in grado di riscuotere le tasse da queste persone e quello che non siete riusciti a fare voi lo delegate in qualche modo al giudizio o a quello che ne può venire fuori dal parere della collettività che se la prende con quelli che non pagano le tasse. Certamente, una fondamentale verità c'è anche in questo. D'altra parte io non vedo cosa posso fare se non attivare tutte le procedure. Se fossi stato inadempiente di non fare tutti i passaggi che sono stati fatti, ma queste persone come minimo hanno avuto tutti e tre raccomandate di sollecito. Sì, certo, esatto. Ma almeno, che... almeno hanno detto non ho i soldi, no, niente proprio. No, perché quelli che sono venuti, io quelli che hanno allora, fatto sì. un accordo di dilazione o di pagamento a rate o nel tempo, io quelli non vorrei pubblicarli perché c'è una buona volontà, volersi mettere in regola, no? Cioè, quelli proprio che, ma, che dai. Sindaco, posso chiederle lei esattamente cosa si aspetta che accada? Cioè, nella, qualora lei lo potesse fare, il garante le desse il benestare, sì. lei si che reazione si aspetta nella collettività? Cioè, leggono questi nomi e che fanno? Che qualcuno si ravveda. Io devo dire che da quando ho cominciato a fare questa esternazione di questa volontà, ci sono già dei numeri che si stanno cominciando a vedere, qualcuno sta cominciando a venire a pagare e quindi già un primo effetto l'ho avuto, quindi c'è qualcuno che si è svegliato certamente, certamente. Sentiamo un ascoltatore, Roberto da Milano, buongiorno Roberto. Sì, buongiorno, mi sente? Bene. C'è un po' la voce giù, ti favo Inter ieri sera. Lo sapevo. In realtà, simpatico. In realtà Roberto, lei ha telefonato apposta per questo, cioè, quindi c'è già detto niente del tema. Voleva solo farmi ricordare che ieri c'è stato il derby. Prego Roberto. No, volevo solamente dire al sindaco, senta sindaco, siccome un paese è piccolo, io vivo in un comunello piccolo, poi le spiego, quando andate a chiedere il consenso, visto che riconoscete anche prima queste persone che voi adesso volete mettere alla gogna, le dico questa cosa, guardi, io vivo in un comunello, sono una persona che si è separato da un paio d'anni, vivo una situazione economica un po' particolare, sono una persona che nel mio comunello fa anche del volontariato, l'ha fatto, spiccio, quindi mi do da fare, a volte anch'io pago in ritardo la Tari, non si tratta di grandi cifre, devo per far quadrare i miei conti e dare mantenimento alla mia ex signora, devo mandare avanti bollette, che siano un po' tutte, quelle del comune e non. Però vede, non mi sento un disonesto, io non credo di essere una persona disonesta. Però Roberto, il sindaco diceva le persone proprio quelle recidive, quelle che non ha mai risposto. Appunto, ha detto che ascolta, quelli che vogliono dilazionare non li vuole pubblicare. Ma io, guardi, no? Io non devo andare a mettere la mia dignità in pubblico per qualche bolletta che non riesco a pagare in orario, diciamo. Questo è giusto. Siccome il problema lo si vive in tutti i comuni ormai i comuni hanno adottato dei sistemi pazzeschi per far bilancio, i vigili per esempio cominciano a fermare gli autocarri, dovrebbero far uscire i bambini dalle scuole, controllare il traffico, ormai li mettiamo a controllare gli autocarri perché il camionista è quello molto più perseguibile dal punto di vista di una multa, scusi se parlo così. No, va bene, Roberto è chiaro, sindaco vuol rispondere. Non il bilancio con le multe degli automobilisti o... No, vabbè, un'altra cosa, però Roberto dice io se non riesco a pagare la bolletta, lei dice non voglio mettere alla berlina quelli che sono un po' in difficoltà, lui dice ma io non voglio mettere la mia dignità di persona all'esposizione pubblica a dire guardate sono in difficoltà, no? Quindi non si può sapere perché uno non paga una bolletta o non paga la... Però diciamo parlando con i funzionari dell'ufficio tributi uno una soluzione la trova, non è che noi siamo insensibili a una difficoltà, a una disoccupazione che sopravviene o a una malattia, certamente noi abbiamo attenzione su tutti, però il bilancio del comune è come quello di una famiglia, il sindaco diceva che era in difficoltà. A me mi vengono a chiedere quelli che sono indigenti un contributo economico e dico no, non ve lo posso dare perché sono un'anticipazione di cassa perché ho questi soldi da riscuotere. Il bilancio del comune, da una parte entrano i soldi e dall'altra si danno i servizi. Se i soldi non entrano, noi non li stampiamo i soldi. Con che facciamo fronte? Io Veronica una cosa l'ho capita, fare il sindaco nel 2017 è difficile. Su questo siamo missione, assolutamente d'accordo. Missione. Abbiamo avuto modo di imbatterci nelle ultime settimane nelle vicende dei sindaci. Veramente sono dei funamboli perché è molto complicato. Però io volevo chiederle una cosa, sindaco. Lei sa che anche in Cina stanno tentando di introdurre questo sistema, che entro la fine del 2017 sarà... L'idea è quella di creare un sistema per svergognare pubblicamente tutti coloro che non riescono a rimborsare i loro prestiti bancari. Io a volte li finisco anche con la pistolettata. È la nuova decisione perché la Cina vuole rendersi più affidabile in termini di rispetto dei propri conti e quindi hanno deciso di optare per questa scuola, no? Di creare proprio una sorta di lista dei cattivi. No, in ogni caso no, non vogliamo farle prendere spunto dalla Cina. Da Montemurlo, Prato, ecco, si informi visto sì, che è qui a due passi da noi. Chiami il sindaco di Montemurlo a capire come ha fatto lui. Torniamo un attimo dal professor Stevanato a capire, professore, le difficoltà ce le ha dette dal punto di vista normativo. l'idea che uno che non paga le tasse, lei che sia diritto tributario, come lo dobbiamo definire? Evasore ovviamente, ma è un truffatore per la collettività, come lo si inquadra? No, eviterei di usare queste categorie concettuali. Appunto, l'ho detto perché Oscar Giannino se n'è andato via, quindi se n'è andato via lo posso dire. Ecco, però no, eviterei queste categorie. Peraltro qui un'altra cosa che osserverei è che vedo problematica una distinzione nell'ambito dei soggetti che risultano non aver pagato i tributi comunali, tra chi non lo ha fatto perché ha avuto una difficoltà, tra chi invece aveva fa le ferie, quindi apparentemente ha dei soldi e però non adempie. Cioè selezionare ulteriormente, o si pubblicano tutti, cioè, al di là che non si può fare in assoluto, ma o si pubblicano tutti, e al limite l'informazione da darsi è tra chi ad esempio ha un tributo in contestazione perché ha impugnato una cartella, tra chi invece ha lasciato scadere il debito senza pagarlo, ma cominciare a distinguere tra soggetti diversamente meritevoli o diversamente diciamo poco attenti al dovere tributario in funzione di scienza privata, di conoscenze che possono avere i funzionari, mi sembra un altro aspetto adesso mi avete incuriosito, adesso sono qua comune.montemurlo.po.it perché io voglio capire come abbiano fatto. Sei veramente un voyeur. Ma no, come facciano a Montemurlo a farlo, cioè in base a che cosa? No, adesso... ma soprattutto se il garante della privacy non dà l'assenso, possono il comune di Montemurlo farlo, Stevanato? No, non possono farlo, poi arriverà il garante che darà, sanzionerà. Che bloccherà e avrà eventuali sanzioni, per cui quando poi il comune sarà sanzionato e si lamenterà che non hai bilanci in regola per colpa dei morosi, avremo capito che è un circolo vizioso. Sì. Sentiamo Fabio da Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno. La sentiamo malissimo però. Adesso vediamo se parli in un posto dove sto qui. Sì. Adesso va bene? Insomma, dove vive lei, Fabio? No, ero in una zona della casa dove forse c'è poco segnale, adesso va bene. No, ma non so, insomma, forse la al cellulare, forse se ci fosse un eco, come se fosse in una grotta. Forse adesso è migliorato. Sì, migliorato. Okay. Guarda, io volevo dare un consiglio al signor sindaco. Faccia come fa, impari dalle procure. Dalle procure escono sempre notizie di indagini assolutamente riservate, con pubblicazione di nomi, cognomi e indirizzi, e i giornalisti si trincerano sempre dicendo che devono proteggere la fonte. Allora il signor sindaco, in maniera molto furbesca, fornisca questi nomi alla stampa, poi protegge la fonte, deve essere il giornalista a fare la sua bella inchiesta. A lei, Fabio, capisce? Come dire, cioè adesso io non so poi l'interesse giornalistico dei contribuenti evasori di Massarosa in provincia di Lucca, sindaco, non so, ha dei cittadini famosi per cui c'è un giornalista di inchiesta. No, esatto, non credo sia di pubblico interesse, interessa a voi, a lei interessa. Infatti. Vabbè, ma lei come procede adesso per concludere? Cioè cosa fa? Attende la prova. A questo punto stiamo aspettando, stiamo accelerando con tutte le procedure, quelle che ci sono consentite in maniera diciamo regolare e legittima, per cui stiamo cercando di accelerare la riscossione. Se poi arriverà vedremo come applicare questa possibilità che abbiamo, facendo, capisco io che stare a discriminare è difficile, però io quelli che si sono dichiarati disponibili a dilazionare e a mettersi in regola, io quelli non mi sembrano di doverli definire come degli evasori. Sono persone in difficoltà che poi li troviamo una però diceva il professore, però è difficile fare questa distinzione. È difficile. Però tanto si vede che di lì c'è una buona volontà di volersi mettere a posto, no? Però c'è anche appunto chi ha l'amor proprio, come dicevamo, no, di non voler mettere gli affari proprio in piazza, di non voler dire magari non riesco a pagare perché sono in difficoltà, cioè è una materia delicata, insomma. Però io gli dico una cosa, ho fatto già un'altra cosa in piccolo di queste azioni. E abbiamo le edilizie popolari, le case popolari, e praticamente io mandai a tutti una comunicazione dicendo: guardate, io controllo se i vostri requisiti per poter detenere un'abitazione popolare stanno persistendo e esistendo ancora, e solo per il fatto che ho detto che li avrei controllati attraverso la Guardia di Finanza e tutti gli strumenti che abbiamo, 5 chiavi me le hanno riportate, perché vabbè, c'erano persone che non volevano neanche essere controllate da un punto di vista di reddito e di altre cose. Ma diciamo che una presunta o prevedibile sanzione può spingere qualcuno a dire no, vabbè, allora mi metto in regola. Questo sì, no, cioè un moral suasion, come si potrebbe dire, è legittima, no? Su questo non... Guarda che lo dico al presidente della Crusca. Stiamo chiamando anche i cittadini dicendo: guardate, non ci fate andare a fare azioni successive, perché poi dopo avrete degli aggravi di costi e tutto quanto. Quindi, no, ma è chiaro, tutto quello che serve a cercare di convincerli a pagare, va bene. Il resto quindi, comunque, sindaco, vedrà. Lei punta più sulla reazione di coloro che sono chiamati in causa che non sul linciaggio di quelli che leggeranno, sì, metaforico, direi chiaramente. Direi proprio di sì. In ogni caso, dai, vi ringraziamo e vedremo come va a finire. Franco Mungai, sindaco di Massarosa, e Dario Stevanato, che insegna diritto tributario a Trieste. Cara Veronica, siamo qui. Dai. Tanti ci scrivono, fa bene, fa male, si sono divisi e va bene. Aspetta che stavo leggendo ancora due pagine di questa storia di Vandanara. Oh, mamma mia, tra poco ci sarà un funambolo straordinario, un imprenditore che ci racconterà come si è messo lui al posto dell'INPS a pagare un dipendente che spetterebbe come pagamento all'INPS, ma che viene pagato dall'azienda. Questa è proprio una bellissima storia, veramente una bellissima storia. I funamboli. Buongiorno Alino, non pensare al tuo Milan, lascia fare, altrimenti ti fai sangue amaro. Ma infatti non ci stavo pensando, caro ascoltatore, fino alle 9.37 e 23 secondi, però se tu me lo ricordi... A me sembrano sempre tutti Anacleto, dici che è grave? Ah, Anacleto, il nostro grande Anacleto che salutiamo, di Montecatini, è perché i toscani... Ma no, non è vero, adesso dico una bestialità, parlano più o meno... No, non è vero, i campanili toscani... Io dicevo del mio pensiero ad Anacleto, non che i toscani parlassero tutti uguale. Però ti sembrano tutti Anacleto. Ma perché sai, no, come quando uno pensa, si innamora di Alessandro, si chiamano improvvisamente tutti Alessandro, no? Ecco, questo per rimetterti di buon umore, ho fatto un esempio dell'irreale. Non succederà, esatto. Dai, siamo qui alle 9.38 minuti, questi sono i funamboli e vogliamo raccontare una storia davvero anche bella per certi aspetti, anche se racchiude un aspetto non certo positivo. Perché è la storia di un dipendente che si è ammalato di un tumore, quindi una malattia grave, con invalidità al 100%, e l'azienda che l'ha assunto, azienda di Cesenatico, ha deciso di versare al posto dell'INPS, che dopo sei mesi ha smesso di versare i 300 euro, credo, di invalidità mensile, e allora l'imprenditore dice: allora ci penso io. Ma forse non dovrebbe essere così, ma vogliamo salutare Rocco De Lucia, buongiorno e benvenuto, grazie di essere con noi. Buongiorno dottor Milan. Titolare della Siropac. Allora, questo... lei è una voce cara a me, perché tutte le mattine l'ascolto quando sono in viaggio. Grazie, bene. Bene. Senta De Lucia, voi vi siete sostituiti all'INPS, intanto diciamolo, per legge l'INPS dopo quanto tempo può smettere di... 180 giorni. Quindi, presente che comunque per me questa è stata una tegola, perché io faccio l'imprenditore, cioè io porto avanti un'azienda che fa innovazioni, quindi devo pensare a altro, non posso pensare, anche perché in Italia per fare una busta paga ci vogliono 3 lauree. Quindi noi c'è stata vicino l'associazione, la Confartigianato, e quando abbiamo ricevuto la paga, quando mia moglie doveva dare le paghe, mi fa: guarda Rocco, qui Steve non prende niente. Steve non prende niente, ma cosa sta succedendo? Chiamo in associazione, l'associazione mi spiega questo, io sono... Cioè che dopo 180 giorni l'INPS ha smesso di erogare l'invalidità. Applica una legge. Applica una legge, rimasto, certo. Sì, io sono rimasto sconvolto perché ho detto: ma come? È uno scherzo, per me, io lo prendevo come uno scherzo, no, non può essere questo. E allora, quando sono andato a fondo, ho scoperto che un malato ha diritto a 180 giorni di retribuzione. Non solo, questi 180 giorni, cioè la paga, non è uguale a quando viene a lavorare viene, è più bassa. È più bassa, sì. Che è curtata. Sì, ma adesso poi non voglio fare discussione, non voglio... No, la legge è questa, Veronica. Sì, ma quando... No, questo lo so, ma io volevo che ci raccontasse un po' la storia dell'assunzione, perché lei in realtà ha assunto Steven, questo ragazzo che stava già male. Cioè lei è una... Assolutamente. Non voglio tesserle le lodi, ma insomma la sua è una storia veramente molto virtuosa, come dire, ma, si è... No, allora, io passo da questo presupposto, cioè ogni individuo su questa faccia della terra può trasmettere una positività al prossimo. E voi non sapete, ci sono delle aziende, delle multinazionali che prendono dei motivatori. Io vi dico e vi assicuro che Steven non ci ha motivati. Ci ha messo la dinamite nel sangue, perché vedere questo ragazzino, questo Little Stitch, voi lo dovete vedere, cioè è un soldo di calcio. Cioè, ho letto che lo chiama soldo di calcio. Ha una grinta, ma lei lo sa che io ogni tanto l'ho sgridato, perché arrivavano i corrieri, perché lui deve stare al videoterminale, soltanto che la sua postazione si affaccia anche verso l'ingresso dell'azienda. Sì. Arrivano i corrieri, lui muove per andare a prendere i pacchi. Io ho detto: sì. Ma sei matto, ma se ti fai male, ma porca. È una persona molto, molto entusiasta anche di fare quello che ha fatto. Il problema è Rocco De Lucia, che voi avete deciso a quel punto. Tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto: non solo la persona può non ricevere più soldi come ha fatto l'INPS, può essere anche licenziata. Cioè, lei potrebbe licenziarlo. Assolutamente sì. Dopo sei mesi, no? Allora, non voglio dire, mi sembra sono sei mesi, più altri due mesi, ci sono delle parole tecniche che potrebbero portare a 8 mesi. Io sono un inventore, cioè, quindi non mi dovete chiedere cose che esulano dalla mia... No, è chiaro, però diciamo, lei affidandosi a un commercialista potrebbe avere i termini più o meno, prima o poi potrebbe licenziare. Sì, no, io lo posso licenziare, sì. Questo è quanto mi hanno detto, ma poi tra l'altro alla vita in diretta è stato lo stesso personaggio dell'INPS che gli ha detto: ma si licenzi? E io sono rimasto basito, infatti gli ha detto: ma sì, io ho trovato De Lucia che magari mi riassume, ma lei si immagina, arriva una persona che comunque lo deve assumere e sai che comunque ha delle... una cartella clinica così invalidante, se non hai un posto dove metterlo non lo assumi. Certo, chiaro. Ma voi invece vi siete comportati esattamente al contrario, leggevo, nel senso che all'inizio ci sono stati anche i suoi dipendenti che avevano proposto addirittura di fare una colletta e di tassarsi per pagare lo stipendio a Steven. E invece lei è intervenuto e ha detto: no, ci penso io. Allora, voi anche lei, voi dovete capire che questa è la mia filosofia, cioè noi abbiamo vinto un premio a livello nazionale come Welfare Champion Index delle PMI, quindi siamo arrivati terzi su 3.000, adesso è qualcosa, cioè, come welfare aziendale, okay. Al welfare. Quindi la sua è una filosofia di vita, dice? Sì, esatto, esatto. Anche perché poi io voglio fare anche un appello agli imprenditori. Questo è un appello che mi viene dal profondo. Allora, io avrò avuto anche fortuna, non lo metto in dubbio, però io ho notato questo: più la nostra ricchezza, e la nostra ricchezza sono i nostri dipendenti, più li facciamo stare bene, più li facciamo sentire vicini, più li facciamo sentire importanti per noi, e più loro ci danno. Sì, è quello, quel termine che a me non piace neanche tanto, viene definito il capitale umano, no? Però è il senso, ha una sua efficacia nell'esprimersi. Però è il senso del rapporto con i dipendenti. Poi anche un discorso, cioè quando si parla di padroni di Centano, ma se la devono finire di parlare così, cioè io non posso sopportare, io non sono padrone, cioè, assolutamente, io sono un padrone... Ma è chiaro, io non credo che lei l'abbia fatto con un'ottica assolutamente padronale, appunto non usa questo termine padrone, però anzi tutt'altro anzi beh questa viene dato un esempio veramente encomiabile. Eh sì, in ogni caso, visto che dobbiamo andare al traffico, noi Rocco De Lucia la ringraziamo, ripeto, titolare della Siropac, con questo dipendente che è malato di tumore. Forse il quesito con cui ci lasciamo noi è anche quanto questa legge sia o non sia giusta, che era un po' l'obiettivo poi del comunicato che ha lanciato la società di De Lucia. Cioè, sì, questa legge è una legge che andrebbe rivista, è giusto che dopo 180 giorni l'INPS, anche in casi di malattie invalidanti al 100% con dei tumori gravissimi, smetta di pagare? In quei casi tutti noi che paghiamo le tasse non le paghiamo anche in virtù di questo? No, ma anche perché voglio dire, in questo caso il dipendente ha trovato un imprenditore, si può dire, lo dico illuminato, senza un po' di smentita, esatto, illuminato, però non sempre è così. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Guarda che è arrivato un altro funambolo oggi, un pochino più mogio del solito. È di cattivo umore anche lui. È milanista anche lui. Guarda che qua, tu non lo sai, o entrano in redazione gli atei, come Elisabetta Fusconi, come te di calcio, sì, o i milanisti. È peccato, è entrata per un attimo Elisa Pancaldi, che ieri è stata licenziata, ma voglio dire... Quindi è tutto corrotto qui. Quindi è tutto un magna magna. Fate sempre come vi pare a voi, ma andate avanti quelli che volete voi. Ma no, non è corruzione, è una prerogativa sine qua non. Dai, poi dicono. I funamboli. Non ti preoccupare, c'è Bonucci, ve l'abbiamo dato quello per spostare gli equilibri. Che noia, ragazzi. Si godono tutti per questa cosa. Oh, mamma mia, sì, come uno, sono. Uno mi ha scritto: in questi casi gravi, sai che puoi cambiare il cognome. Mamma mia, mamma. Perché loro sanno fai che lui come Manera cambia il cognome. Esatto. Allora, quelli che scrivono così in realtà sanno che noi potenzialmente siamo forti, noi del Milan, e quindi sono invidiosi dentro, perché sanno che noi a marzo, certo, verremo fuori. A marzo, anche a ora, maggio. Da Atea, forse a giugno questa mi sa di arrampicata sugli specchi. Però io non dico quest'anno, perché non verremo nulla fuori tra fine giugno e luglio. E saranno cavoli per tutti. Esatto. Verremo fuori per la prova costume. L'ha capita perfino Veronica Gentile. Vai, cioè, no, qui è proprio un fatto così deduttivo. Non... Sì, sì. Comunque basta parlare di queste cose minori. Ti mettiamo di l'inno calcio del Milan sotto, ti piace? Dai. No, in realtà questa settimana è successa una cosa importante, cara Veronica e Alessandro, che il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha preso una posizione sullo Ius Soli, no? Ha detto che la legge sarà approvata entro fine legislatura. E al di là di come la si pensi sullo Ius Soli, insomma, favorevole o contrario, la cosa importante è che Gentiloni ha preso una posizione chiara, netta, ha detto che lavorerà perché ci siano le condizioni per approvare lo Ius Soli entro fine legislatura. È vero che c'erano le sollecitazioni di Veltroni, anche Renzi è d'accordo, ma è la prima volta che Paolo Gentiloni prende una posizione chiara, netta, sicura, anche se con toni, insomma, a volte un po' claudicanti, però l'ha detto. Bravo Paolo, ormai manca poco. In tutti questi mesi molti italiani ti hanno visto come uno messo lì pro tempore, manovrato da Renzi, e invece no, è arrivato il momento di diventare Super Paolo. Basta questo stacchetto, l'ho già sentito. Basta con i toni bassi, con l'understatement. Gentiloni è troppo modesto, sembra sempre che prenda il tram anche quando è con l'aereo presidenziale. Anche al G7 a Taormina, se ci fosse stato Berlusconi, avrebbe detto che la Magna Grecia l'aveva creata lui subito prima di Milano 2. E invece Gentiloni era lì con un tono di voce sempre uguale, che perfino il Prodi dei tempi d'oro in confronto sembrava un estremista. È arrivato il momento, Gentiloni, di lasciare un segno in questa legislatura. Non importa se il segno sarà positivo o negativo, prendi la Fornero. Ha fatto una riforma che odiano tutti, ma con quella riforma è diventata famosa. Se garantite il ricordo delle persone, e forse tra qualche anno ce la ritroveremo a X Factor al posto di Mara Maionchi. Fai così anche tu, Paolo. Sfrutta questi ultimi scampoli di legislatura per garantirti il ricordo dei posteri, nel bene e nel male, per una cosa qualsiasi. Per esempio, Berlusconi rimarrà negli annali anche solo per la famosa foto con le corna. Renzi per il se perdo il referendum lascio la politica. Perfino Monti per il Loden. Enrico Letta per la stretta di mano controvoglia a Renzi. E Prodi rimarrà nella storia per la velocità di parola, diciamo. Adesso, Paolo, è il tuo momento, sfruttalo, non è ancora troppo tardi. E io, nel mio piccolissimo, ma veramente piccolissimo, lo so, voglio indicarti una serie di piccole cose che puoi fare per rimanere impresso nella mente degli italiani. 1. Tu, che sei un uomo di cultura, vero? Durante una conferenza stampa infila una frase difficilissima infarcita di participi, congiuntivi, congiuntivi ottativi e alla fine poi dici tutto questo Di Maio non lo sa fare. 2. Invita a cena Trump e provaci con la moglie, Melania. Poi anche se non hai nessun risultato, di a tutti che ce l'hai fatta, come fanno tutti i maschi italiani che ti vedranno finalmente come uno di loro, veramente popolare. 3. Togli a Silvio Berlusconi l'esclusiva delle battute e dinne una anche tu. Per esempio, sai cosa disse Gesù alla Maddalena? Disse, bella la Sardegna, alla Maddalena. Così dimostri di essere sia credente che patriottico. Un brivido mi percorre. 4. Visto che il ponte sullo stretto di Messina è troppo complicato, proponi il ponte tra Piombino e l'isola d'Elba, sottraendo consensi a Renzi che nella sua Toscana non l'ha mai proposto. Insomma, sparane qualcuna grossa che agli italiani piace sempre. Per finire, se Matteo Renzi ha le origini è andato da amici di Maria De Filippi, tu proponiti come tronista uomini e donne, così avrai anche il consenso dei giovani. Così finalmente diventerai Super Paolo e sarai un vero politico italiano con la giusta credibilità sui mass media e nel popolo. In Italia ormai funziona così. Questo sì che è un consigliere politico. Scusa, com'era quella della Maddalena? No, non è vero, non è vero. Sai cosa disse Gesù alla Maddalena? Disse, bella la Sardegna. Non è vera, non è vera, non ci posso credere. L'ha detta, l'ha detta. C'è Giovanni da Milano. Buongiorno Giovanni. Oh mamma mia, quando chiamo da Milano. Buongiorno adesso... Milano. Sì, Giovanni, sì. Allora, lei è tifoso di... Dai, me lo dica. No, no, no, no, non lo sta dicendo. Interista, ecco. Dica Giovanni. I milanisti non chiamano no, oggi. No, no, no. No, solo gli interisti. No, l'idea era, sì, era molto semplice. Il sindaco dovrebbe pubblicare i nominativi delle persone che pagano le tasse, non quelli di quelle che non pagano, autorizzato dagli stessi cittadini. Beh, automaticamente, insomma, diciamo, per esclusione gli altri invece per esclusione gli altri vengono fuori. Questa potrebbe essere un'idea. Beh, però è un'idea al contrario, però in ogni caso è un elenco, credo che non si possa neanche così, per la privacy, non è che la privacy, cioè uno per deduzione va a capire chi non è in quella lista, non ha pagato, insomma. È un po' più... Il criterio è un po' lo stesso, temo. Eh sì. Leonardo, tu sei finito in qualche lista? No, ma poi sai, penso che alla fine queste liste si guardino, non si guardino. Resta giusto il tempo di una mattina, poi ognuno fa la propria vita fondamentalmente. Beh, quindi però, si potrebbe pubblicare tutto. Vi ricordate me. Quando nel 2008 ci fu la pubblicazione appunto di tutti i redditi online? A parte che c'erano giornali Libero, credo ci campò per giorni e giorni. E poi tutti a guardare il vicino di casa, il... Ah, guarda quanto guadagna Veronica Gentili! Quella lì non paga, quello non ha pagato, allora se io non posso far portarvi no, a... Fu così. Cioè, secondo me c'era anche Leonardo Bonetti tra gli evasori fissi. No, svelato il mistero del perché Leonardo Manera cambiò cognome. Esatto. Fu pubblicato su Libero il suo improvvisamente svelato l'arcano reddito. Dai, la seconda ora di Funamboli tra poco arriva. Ci sono tante cose ancora che vi dobbiamo raccontare. Siamo in diretta fino alle 11 e allora state con noi. Vai a prendere una camomilla intanto. Sì, sono già calmo. Veniamo fuori a marzo, tranquilli. Anche a giugno. Io mi ero calmato, è che poi arrivando... Io ieri mi ero calmato. E poi intanto qui... Wanda guardava il suo Icardi e vedeva in lui quello che non aveva mai visto prima. Parte Icardi, destro! Donna, vuoi far accettare il pesce a tuo figlio che lo rifiuta costantemente in modo pedante e irritante? Allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente, i bastoncini tipo capitano, ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo, ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce. Bastoncini del sottotenente, fan contenti la mamma, fan contenti i bambini, fan contenti i merluzzi. I funamboli. Complimenti davvero, davvero grossi a questo imprenditore, è una perla rara. Alessandro Milan, il funambolo che sposta gli equilibri. Ah, potremmo tornare alle sigle. Cari amici, 349-238-6666, fate la vostra sigla in audio, ecco, un audio magari migliore di questo. Questo era sapore un po' vintage, bello quando riesce. Sembrava un 33 giri, un 78 giri. Mandateci le vostre sigle creative con la parola ovviamente funamboli, con me, con Veronica Gentili, con Leonardo Manera. Inventatevi qualcosa, noi le mandiamo in onda. Ti piace, Veronica, questa? Moltissimo. No, che comunque bello. Oggi siamo tutti un po' mogi, eh? Tutti sì, sì, sì, sì. No, sì? Dici anche io? Sì. Io per solidarietà. Comunque ci scrive Gabriella, perché io stavo impazzendo, rettifico, sul sito di Montemurlo non c'è alcun elenco di chi non paga tasse comunali. Ma Gabriella, allora, ma hai mobilitato la redazione per due ore qui. Ma insomma, vedi, tu ci avevi subito creduto e ti eri fiondato. Sì, ma sei come quelli che spargono le fake news in giro. Un attimo. Adesso il sindaco di Massarosa chiama il sindaco di Montemurlo, che gli dirà: ma non è vero. Ma starà cosa... già dicendo al garante della privacy: allora diciamolo che facciamo figli e figliastri. Allora lui sì, a me no. Me l'ha detto Milan. Sì, io lo sapevo. Un attimo. Sì, e noi no. Lui lo sapeva per certo, l'ha visto su internet. Vabbè. È un attimo, è un attimo. C'è Maurizio da Udine. Buongiorno, Maurizio. Pronto, Maurizio? Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24, sì, che io seguo assiduamente. Benissimo. Ma diciamo che oggi veramente mi avete lasciato, come si dice, basito, perché ho ascoltato le affermazioni iniziali e veramente non mi raccapezzavo. Ho preso il telefono, ho detto magari stavolta passano. Ma su che cosa, Maurizio? Guarda, riguardo all'evasione, insomma, no? Cioè, affermazioni davvero, no? Cioè, addirittura si parla, cioè, che in Cina sarà data pubblicità una lista di chi non può pagare le rate. Ma guardate che veramente questa è una cosa gravissima. Cioè, voglio dire, uno non paga le rate, può essere anche un piccolo, un privato, un piccolo imprenditore ammalato, voglio dire, che magari si è baccato, si è beccato una malattia, non può pagare. Come si fa a fare di questi discorsi? Infatti il sindaco, no, infatti il sindaco l'ha detto, cioè ci era sono, questo il ci quesito, sono persone, che ci ponevamo. Ci sono persone che non pagano perché non ce la fanno, persone invece che si sa, perché lui lo sa, conoscendo il paese, che invece sono dei furbetti. Ma guardi, io sono dell'idea che il piccolo imprenditore a volte dà per necessità, perché non ce la fa, non ce la fa. In questo periodo di crisi, guardate, c'è poco da fare. No, ci sono situazioni così, Maurizio, ci sono incassare le forniture, cioè, i lavori fatti, eccetera, la gente ma poi certo, non paga perché c'è un circolo vizioso delle banche, Maurizio, eccetera. Abbiamo dedicato una trasmissione a chi lavora col pubblico e non incassa, cioè certo ci sono mille sfumature, ma lo sappiamo, infatti noi oggi, Veronica, raccontavamo proprio queste sfumature. No, perché giustamente c'è chi si arrabbia molto, io capisco che ci sono tutti i punti di vista. E la difficoltà è raccapezzarsi e capire veramente chi è dalla parte del torto e chi no. Per questo io col sindaco ero un po' perplessa. Allora, è il momento però del funambolo del giorno. Nome: Enrico. Cognome: Dini. Età: 55 anni. Ingegnere e amministratore delegato della D-Shape. È conosciuto anche come l'uomo che stampa le case. Voi ridete, ma tra l'altro un italiano che l'hanno intervistato La Vanguardia in Spagna, l'hanno intervistato in tutto il mondo, Enrico Dini, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Costruisce con le stampanti 3D case, è vero anche. Enrico, che... me la stampa una casa? Eccola là, subito. Con calma e per piacere. Io ci metto sia la calma che il per piacere, basta che lei prende stampa. Quando è pronta? Stasera? No, ma in realtà... Stasera, magari. Allora, Enrico Dini fa questi progetti straordinari. Per la verità adesso dice costruisco soprattutto case per pesci, cioè fa pezzi di barriere coralline con la stampante 3D, ce lo spieghi? È molto semplice, si parte dal fondo dei mari perché sono i più sicuri per queste tecnologie di fabbricazione nuove, di forma libera, perché la stampa 3D ha la grande prerogativa di poter permettere di materializzare forme di qualunque sorta, tra cui forme con cavità, tane, sottosquadri, e si possono materializzare degli oggetti che assomiglino molto alle barriere coralline per permettere ai pesci che hanno un gran senso estetico di potersi collocare. No, ma tra l'altro è straordinario perché Dini è un ingegnere di Pontedera, gli inglesi lo chiamano l'uomo che stampa le case, la Spagna gli ha dedicato appunto un'intervista di una pagina, cioè è conosciuto davvero in tutto il mondo. Dappertutto, in realtà in Italia è stato il posto dove è stato riconosciuto per ultimo, no? Al solito. Sì, così pare. Nemo profeta in patria. È proprio vero, perché il sistema nazionale è concepito e conformato in questo modo, per cui sono dovuto andare a Londra per avere la visibilità in Italia, perché siamo un po' provinciali, ahimè. Bisogna che qualcuno certifichi un italiano come un buon inventore, in modo che questo venga ascoltato anche in Italia. Una lunga storia. Quanto devono essere... Sono molto più famoso, per esempio, in Cina. Mamma mia, una sera sono andato in onda nel telegiornale di mezzosera, mi sono arrivate, non so, qualche migliaia di mail dalla Cina. È una star anche... in Cina. Sì, tant'è vero che i cinesi hanno preso molto sul serio questa invenzione italiana e l'hanno spinta molto, per esempio, negli Emirati. Avete sentito che lo sceicco e il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ha detto che entro il 2030 una parte delle fabbricate dovranno essere stampate in 3D. Tutto questo è frutto di una foto che postai nel 2010, che era una provocazione perché era la sezione di un fabbricato, e questa cosa dopo un paio d'anni ha prodotto i suoi effetti. Quindi possiamo ammirare l'opera compiuta. Abbiamo... Ma Enrico, ci spiega un po' quali sono i vantaggi del stampare le cose in 3D? Ma prima di tutto un vantaggio per me è stato un atto estetico, più che di tipo economico, perché in America la stampata 3D viene percepita come un modo per stampare le case a basso prezzo molto rapidamente, quindi è un approccio di tipo economico. Per me la stampa 3D è un modo di fare nuova architettura, e siccome ogni nuova generazione lascia una traccia di sé attraverso una forma di espressione creativa, e ogni 20 o 30 anni o 40 cambia il modo di impostare e concepire il mondo che ci sta attorno, ecco, i nuovi metodi di progettazione che sono in mano agli architetti di oggi permettono di realizzare delle cose bellissime, ma materializzarle è un altro discorso. Ma si può stampare qualsiasi cosa praticamente con le stampanti 3D, però cosa che mi chiedo è quanto devono essere grandi queste stampanti, perché per stampare pezzi di case, cose di questo tipo, immagino che siano forse più grandi delle case stesse, non lo so. Dunque, per avere un approccio di basso profilo, vi confesso che con la tecnologia di Shape, che è una tecnologia molto particolare, in quanto praticamente il file digitale che sta sul computer viene materializzato a strati, depositando strati di sabbia, grandi pagine di sabbia o di altri aggregati, e scrivendo sopra l'immagine della sezione del fabbricato. Quindi la sabbia che non viene legata fa da cassero a quella che viene legata, quindi si potrebbe stampare una sfera con dentro un cubo, qualunque tipo di cosa. E quindi le possibilità di realizzare setti murari con delle cavità interne o anche con delle conche per i fiori, oppure dei pattern estetici molto particolari. Oggi ci sono dei software che permettono di realizzare degli algoritmi di generazione di forme matematiche molto complesse. Non ci sono limiti alla fantasia, quindi in linea di principio è più economico e più veloce. Questo volevo sapere, dal punto di vista economico ci sono dei vantaggi cospicui? Sì, ecco perché in Arabia Saudita mi hanno contattato, che c'è tanta sabbia laggiù, perché in linea di principio con la mia macchina si può realizzare un fabbricato grande quanto la macchina, per cui per la mia tecnologia, se uno vuole fare un fabbricato di 10 metri per 10 metri, ahimè, ci vuole una stampante di 12 metri per 12 metri, certo, che stampi un grande monolite che sarà pieno di sabbia alla termine, quindi bisogna armarsi di paletta e secchiello, togliere tutto per tirare fuori uno splendido edificio che dovrebbe essere realizzato, diciamo, in 5 giorni dall'inizio dei lavori, quindi 5 giorni, in 5 però si giorni può fare. con 7-8 mila euro si tira sui crediti, un fabbricato con delle borse stupefacenti. Però ingegner Dini, noi la dobbiamo salutare, so che l'avevano contattata anche per ricostruire Palmira in Siria, poi o una parte di Palmira ovviamente che è stata distrutta, quindi la guerra poi non è andata così, nel senso, però c'era anche questo progetto. Sì, è vero, abbiamo realizzato a Londra un paio d'anni fa, ha fatto un gran scalpore a Trafalgar Square, abbiamo esposto questa riproduzione in scala dell'Arco di Palmira, che per ragioni di tempo è stata fatta con la 3D e non con la stampa 3D, però insomma la provocazione l'abbiamo, anzi no, diciamo la reazione c'è stata, e questo arco di Palmira ha fatto un po' il giro di mezzo mondo. Staremo a vedere che cosa succede, perché sono in contatto col direttore, insomma hanno delle idee di fare da soli per molti versi, hanno tutte le prerogative per poter rimettere in piedi il sito e riattaccare tutto. Ma questo insomma è un funambolo che guarda al futuro, perché il futuro un po' è lì. Si può. Lo terremo sotto controllo noi, sì. Questo giovane divi. Vuoi una casa. Scusami, ma si può stampare tutto, ma volendo anche una fidanzata per Manera possiamo fare in 3D, che dite? Sì. Leo, non voglio più fidanzate, sto bene nella mia solitudine completa e assoluta, nemmeno guarda. Guarda che quelli in 3D hanno delle marce in più, Ma neanche di sabbia, niente. No, ho deciso di dedicarmi alla mia solitudine completa. Bene, allora andiamo al traffico. Vabbè. I funamboli. Allora, sono le 10:21 minuti, siete su I Funamboli Radio 24, signori, che bel lunedì dopo una splendida domenica! Allora, Veronica, Leonardo, tutti viaggiamo in aereo, si sa. Io sono A me non piace perché mi viene subito l'ansia da turbolenza. Da turbolenza, va bene. Hai qualche aneddoto particolare sugli aerei, Leo? No, ma mi è capitato di fare qualche viaggio molto brutto e questa cosa mi ha condizionato per sempre. Io devo dire che sono stato sempre fortunato, ho fatto grandi viaggi ed è andata sempre molto bene. Effettivamente, forse se uno ha un viaggio un po' così turbolento. Una volta stavo tornando un viaggio da Roma. Ecco, vedi. Allora, deve ricostruire un attimo, li cerca nei file e lo trova. Roma, e allora ho saputo che se sono previste turbulenze le hostess non danno bevande calde per non rischiare di scottare il passeggero in caso di caduta della bevanda. Allora, quando salgo in aereo, siccome ho pure le turbulenze, chiedo subito se c'è il caffè. Allora è il test. Le incastra così. Se ti dicono così. No, dici. E la hostess, per mettermi a mio agio e non farmi preoccupare, mi ha detto: no, caffè non c'è e comunque tra poco si balla. Mi ha detto. comunque, perché parliamo di viaggi in aereo? Perché c'è una hostess di terra che lavora soprattutto a Malpensa, quindi aeroporto internazionale di Milano, che ha scritto un ebook dal titolo "C'è un problema al check-in, sei tu". Sei tu ovviamente, caro viaggiatore. Salutiamo Ambra Garavaglia, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. E che problemi vi danno questi viaggiatori? Che cosa combinano? Tantissimi. Eccoli. Ma perché? Leonardo salta le file al check-in, è questo però. Ma più che problemi, spunti, perché Ambra ne ha raccontate di tutti i colori. Esatto, chi non ha il documento o ce l'ha scaduto o arriva tardi, ma principalmente il problema sono i bagagli. I bagagli sono una tragedia. Ma cioè? Perché? Sono troppo pesanti. Perché voi vi ostinate ad avere un limite di peso per i bagagli. È vero, hai ragione, dovremmo toglierlo. Ma che cosa fanno con i bagagli? Si inventano le storie più surreali possibile per imbarcare bagagli che non possono imbarcare? Esattamente, giusto un paio di settimane fa una passeggera è arrivata con un bagaglio pesantissimo sia da Siva che a mano e mi ha detto: guardi, io li ho pesati a casa ed erano giusti, saranno le vostre bilance che sono state male. Ma ho letto degli aneddoti esilaranti, c'era un altro della sacca da golf invece, com'era? Esatto, che non voleva pagarlo nonostante fosse un secondo pezzo, quindi lui avesse diritto solamente a uno perché mi diceva: non è un bagaglio, sono i bagagli più che si pagano, ma la sacca da golf è una sacca da golf, non la vede. Vabbè, diciamo i bagagli d'altronde quando si arriva lì al check-in sono il primo problema. Ma qual è la domanda più assurda che i viaggiatori pongono mediamente? Ma in realtà sono quasi tutte assurde, ma principalmente sempre riguardanti i bagagli o i liquidi, soprattutto nel bagaglio a mano. Già, perché la storia dei liquidi. È un problema, esatto. Non so, una volta mi è capitata una passeggera che mi chiedesse la mela la posso portare nel bagaglio a mano. Sì, signora, solo nei liquidi, le restrizioni. E il panino lo posso portare qui, sì. solamente i liquidi, non è un problema. Vabbè, ma secondo me questa Ambra è severissima. Ma qual è la sindrome secondo te, Ambra? Cioè improvvisamente ci si ottunde completamente quando si arriva al check-in, si diventa, c'è un momento in cui si diventa cerebrolesi, che succede? Sì, esatto, appena si mette piede in aeroporto subito è la tensione. Invece Ambra, ci sono mai dei passeggeri che le fanno delle proposte, che ci provano con lei? Leonardo Manera, per esempio. No, per sapere, perché la voce è gradevole, quindi mi chiedo se poi ci siano passeggeri, allora, se provano un approccio. È capitato. In che modo capita? Cosa dicono questi passeggeri, per esempio? La invitano allora, fuori? Sì, mi chiedono il numero di telefono, mi chiedono se sono su Facebook, mi è capitato addirittura mi allungassero la chiave dell'hotel. No! No, la chiave dell'hotel è una cosa di gran classe. Ma in quel caso uno che fa? Cioè neanche il numero di stanza, proprio questa è la chiave dell'hotel, come dire, sono io il padrone dell'hotel, puoi entrare quando vuoi, puoi uscire quando vuoi. È straordinario questo, c'è una gran classe. Esatto. E qualche volta, adesso non voglio essere invadente, ma le è capitato di essere attratta da qualcuno di questi suoi corteggiatori? Niente, qui è diventato... Ti può chiudere tutto il cerchio. Finisce sempre così, Ambra, non preoccuparti, niente. No, va bene, sono abituata. Ecco. No, devo dire di no, non mi sono mai interessata. No, devo dire che tra l'altro Ambra Garavaglia fa l'hostess di terra, ma anche in volo succedono delle cose abbastanza epocali. Ci sono, per esempio, ecco, questa nuova moda portata avanti dai social, di twittare, di facebookare, di instagrammare tutto, per cui ci sono delle hostess, per esempio, che riprendono tutte le foto, mettono le foto di come i passeggeri a bordo lasciano gli aerei alla fine dei voli intercontinentali, cioè con dei disastri. Tremendo, sì, tremendo. Però voglio dire, non è anche questa una gogna dei passeggeri? Un tempo non c'erano tutte queste cose, no? Allora, diciamo che a parer mio abbia sia un riscontro positivo che negativo, nel senso che da una parte forse serve alle persone per rendersi conto di come ci si debba comportare a bordo, perché comunque non è un bene lasciare l'aereo in determinate condizioni o mettere i piedi sul sedile davanti, eccetera eccetera. Da una parte anche io non sono molto d'accordo, devo dire, a divulgare le foto, soprattutto dei passeggeri, non mi piace. Insomma, perché quello è una moda moderna, diciamo così. Sì. Comunque ci sono delle perle di Ambra, io non posso astenermi. C'è questa: signora ha qualche chilo in più, porto delle cose di mia figlia, non contano a parte. Ma dov'è sua figlia? Parte la settimana prossima. Non è male. Questa... Dovevo lasciare degli appunti, no? È esilarante. Cioè, praticamente... torna. Si portava signora avanti. Ha portato bagaglio in più per la figlia, scritto, perché in realtà tu hai deciso di scrivere, di aprire un blog, di raccontare queste vicende, perché hai detto sono troppe gli aneddoti così che si verificano. Esatto. Per non lasciarli ai posteri. Esatto, è anche un po' una battaglia sociale per ma perché volare è contro natura, voi dovete capire questo, che comunque è una cosa che non bisognerebbe mai fare, la si fa sempre contro voglia, è una cosa che andrebbe evitata il più possibile. Leonardo Manera prende sempre le cose di petto e con entusiasmo. Quindi tu, Leo, sostieni che venga da quello, Leonardo, cioè che improvvisamente la gente diventa completamente ebete perché in realtà non dovrebbe volare? Sì, perché è una cosa che ti fa preoccupare. Comunque è vero, eh? No, io sono preoccupatissimo quando prendo l'aereo, io sto malissimo. Adesso devo fingere di non essere più preoccupato quando vado con mio figlio, perché lui si diverte quando sono le turbulenze. Allora io non posso fare il padre così più preoccupato del figlio, quindi fingo completamente. In ogni caso, noi ringraziamo Ambra Garavaglia. C'è un blog, appunto, dove possiamo leggere alcune cose, dove gli ascoltatori possono andare a fare quattro conti, a vedere se sono citati in qualche check-in in cui hanno fatto. C'è un blog? No, solo la pagina Twitter Ambra Garavaglia, facilissimo da trovare. Ah, vabbè, Ambra Garavaglia su Twitter, così. Grazie ovviamente per essere stata con noi. Ci sono degli ascoltatori. C'è Orazio da Messina, buongiorno. Buongiorno. Io volevo soltanto sottolineare l'importanza di pubblicare i nomi degli evasori, non soltanto delle tariffe e delle tasse comunali, ma anche e soprattutto dell'IRPEF, perché non ne posso più di pagare per chi evade. Quindi lei chi lo evade... farebbe, lei lo farebbe. Gogna per tutti. Gogna immediati. No, non è gogna, è un diritto mio di sapere chi mi costringe a pagare più tasse. Guarda, io pago da pensionato, pago circa 24.000 euro di tasse l'anno, di IRPEF, poi IRPEF comunale, IRPEF regionale, c'è la tassa provinciale, non ho capito perché gli imprenditori si lamentano tanto e dicono ma noi non possiamo. Perché lei è della teoria pagare tutti per pagare meno, è una teoria. Assolutamente sì. Se ci fosse qui Oscar Giannino vabbè, lo so quello che dice Oscar Giannino. Più lo si so, dà lo Stato che... e più lo Stato si tiene, certo. e più lo Stato torna indietro. Mi scusi Oscar Giannino, ma anche lei Milan sì. È della teoria che bisognerebbe disconoscere i patti fra cittadini dello Stato e ridurre le pensioni, sì, come l'ha detto lei, magari a proposito dei vitalizi. Lo inchiodi alle sue responsabilità, bravo. Forse ho detto questo, se c'è stata la legge Fornero, che per cui da oggi in futuro c'è un ricalcolo, tutto è basato sul contributivo, forse bisognerebbe farlo anche per il passato, cioè non vedo perché creare questa discrepanza sociale. Ridurre le pensioni, non lo sapevo. Ma è abbastanza evidente. Allora, lui vuole ridurre le pensioni e oltretutto lui ce l'ha con le persone anziane. I pensionati, diciamo sì, ma tu ce l'hai con le persone anziane. Sì, per la strada me lo dici sempre: che ci stanno a fare le persone anziane, non servono più. Proprio lo dici li voglio sulle panchine a chiedere l'elemosina. Va bene così, Orazio? Ah, forse per te faresti di peggio, No, dopo la gente guarda che pensa che tu sia seria in questo ma momento. Come possono pensare che io sia seria? Ma no, io ho detto c'è la legge Fornero, vale per tutti quelli per cui da quando è stata applicata la legge Fornero, da quel giorno in poi, e perché al passato invece non si deve applicare? Questa è la mia... Vuoi ridurre le pensioni degli anziani, Alessandro Milan. Eccolo lì. Ecco. Traduzione, vuoi ridurmi la pensione, perché poi l'italiano parla di patti sociali, poi gli interessa solo il proprio di portafogli. Allora il vero patto sociale è che se diamo le pensioni col contributivo per tutti da oggi, le ricalcoliamo anche nel passato per tutti. Populista show! Ma che populista show? Questo è proprio il patto sociale per eccellenza, no? Capito? Se no si creano degli sfigati da oggi in poi e quelli prima invece no. E quello è il prima, problema insomma. Del patto generazionale. Mi si parla di patti sociali, patti generazionali, fatti però col portafogli degli altri. Eccolo, dai, gli ha preso il suo attimo così. Andiamo alla borsa. Taccio, onde evitare, poi so che è giornataccia, quindi è inutile. Andiamo alla borsa. I funamboli. She don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. E l'altro giorno sono andato in aereo e la signorina lì mi ha pesato il bagaglio, dice qualche chilo in più. Dico io va bene, lo metterò a dieta. Pazienza, o che vuoi sia. Ciao, via belli, ciao ciao. Straordinario il nostro ascoltatore, eh? Non si capiva di dove era questo ascoltatore, non ho capito. Secondo me è toscano. Io non ho capito. Era Anacleto, secondo voi? Anche lui, Anacleto. Alle 10:39 minuti, signori, eccoci, è il momento in cui convochiamo tutti i nostri ascoltatori che stanno all'estero, oppure quelli che fanno i furbi. È da un po' che non ci scrivono i furbe. Oh, furbetti! Dovete scriverci funamboli@radio24.it a raccontare quando avete fatto i furbetti. Oppure convochiamo i lavoratori strani, lavoratori atipici, lavoratori particolari. Lo aspettavi? Aspettavo questo. Allora, oggi abbiamo un libraio, ma un libraio particolare, il signor Sant'Altizio, che però ha messo giù il telefono. Molto particolare. Questo fa parte dell'attività, no? Tra i lavori strani c'è chiamare, poi riagganciare prima che l'altro abbia replicato. Bravo, poi è un lavoro quasi in estinzione ormai, perché tanti comprano su Amazon, se eccetera. Metti giù il telefono quando uno ha bisogno di un libro, magari. Non aiuta per le public relations. Signor Sante, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, eccomi qua. Ha creato Book Postino, cioè? Beh, dunque, io sono un libraio, ma non ho la libreria. Nel senso che io porto i libri a casa, dunque diciamo se il lettore non va in libreria, il libraio va dal lettore e io faccio questo, per cui io prendo le prenotazioni online attraverso la pagina Facebook, profilo Twitter, Instagram, il telefono e poi porto a casa del lettore il libro. E che differenza c'è rispetto ad Amazon, per esempio, che vende... Beh, mi sembra impegnativo come paragone. Diciamo, io sono Amazon dal volto umano. No, è Amazon a chilometro zero. È straordinario questo. Sì, chilometro zero, dipende da quanto riesco a fare in bicicletta, perché poi io cerco di fare queste consegne in bicicletta, tempo permettendo, tutte permettendo, perché ho una certa età, e quindi, insomma, è così. Diciamo, allora, ma però dove opera Sante? Perché? Dunque, allora, io vivo, cioè sono nato, vivo a Collegno, però lavoro su Torino, e quindi il Book Postino in questo momento lavora su Torino, ma in verità ho alcuni colleghi che si stanno muovendo su altre città, in particolare Rimini, Borgo Manero e tra un po' penso, spero, a Faenza. Ma sta cercando Book Postino in tutta Italia. Ma lei riesce ad arrivare in tutti questi posti adesso? Cioè, con la bici arriva allora, dappertutto? No, dappertutto in città, a Torino nella primissima cintura. Bici, però devo dire anche il mezzo pubblico, qualche volta la macchina, però questo non si può dire sempre, no? Penso certo. Che diciamo che l'intenzione fa più è poesia di... dire sono consegno i libri a pedali, ecco. È una strategia di marketing, diciamo. No, in verità io lo faccio davvero, anche perché questa cosa è cominciata un anno fa ed era estate, Torino era deserta, era bellissimo andare in bicicletta, potevo andare dove volevo. Adesso in bici c'è pericolo che t'arrotano, per cui è meglio ragionarci un po' su. Però diciamo che l'idea è quella di sì, consegnare in bici, mezzi pubblici e sì, insomma è così. E quindi io lavoro su Torino. Altre persone stanno credendo in questo progetto e si sono mosse su altre città. Però più proprio l'aspetto umano, perché effettivamente, adesso io non voglio smitizzare, ma c'è Amazon che con un click ti arriva a casa, oppure ci sono le librerie, uno se ne va è proprio pigro, fa due passi. Sì, sì, diciamo che noi cerchiamo anche di puntare su editoria indipendente, nel senso che questo progetto, che è un po' strano, è nato per gioco come molte cose succedono, un po' scherzando, cerchiamo di promuovere l'editoria che è poco conosciuta, autori poco conosciuti, ma di qualità, nel senso che io tra l'altro ho una pagina Facebook sulla quale recensisco cose, per cui io leggo, recensisco, propongo la lettura, il mio lettore, insomma, poi sono video recensioni, quindi chi mi guarda dice, Sante, questo libro mi sembra interessante, portamelo, e io lo faccio. Quindi si crea anche una sorta di fidelizzazione con i clienti, un po'? Sì, diciamo che l'obiettivo è creare una piccola comunità di lettori attenti anche a quell'editoria che è poco conosciuta, ma di qualità. Lei è stato un hippie, lei, così, sentendola parlare, insomma, una di queste cose crede nelle comuni, negli hippie, è così? Sì, insomma, qualcosa del genere, insomma, questo è un po'... Manera questa prerogativa, Manera sente le persone e poi va dei giudizi tranchant senza essere il tempo è circa di 60 secondi e poi ce l'ha, però è straordinario, insomma, questo lavoro possiamo chiamarlo così, libraio sui pedali, che vi porta a casa libri. Io vorrei farlo diventare davvero un lavoro, per il momento non lo è ancora in senso pieno, però a me piacerebbe che questo diventasse. Ma su cosa guadagna Sante? Una piccola percentuale sulla consegna? Io sono una libreria, io sono iscritto alla Camera di Commercio come libreria, fantastico. Quindi ho la mia percentuale come ha una qualunque Feltrinelli su un libro. Perfetto. Quanti libri può consegnare mediamente in un mese? Per avere un'idea anche dei suoi guadagni. Io sto anche cercando di condensare le mie consegne in un giorno solo, che è il giovedì, perché io poi faccio anche altre cose nella vita. E di conseguenza diciamo che viaggio sui 50-60 al mese. Però appunto lavorandoci, non dico il meno possibile, ma il giusto, perché per il momento devo anche cercare di tenere in piedi un po' tutta la mia baracca, è una startup, come si dice adesso, sulla quale sto investendo tempo, ma non devo esagerare. La startup a pedali. Ma lei prima aveva una libreria, Sante, oppure? No, io quando ero ragazzo ho fatto il libraio, devo dire, io facevo l'aiuto nei tempi della scolastica, poi avrei preso occupato di giornalismo, comunicazione, io nella vita faccio il regista, ma questo sarebbe il mio vero mestiere, faccio web serie, altre robe, però un po' di tempo fa la mia azienda ha chiuso, insomma, la solita crisi, il digitale che trasforma tutto, e ho detto, proviamo a sondare territori diversi, e caro Sante, l'editoria è nata un po' per caso, e quindi è proprio questo che ci piace, l'idea che le persone ci raccontino dei lavori, li chiamiamo atipici, nel senso che sono insoliti, belli, anche curiosi, appassionati, come il suo. Anche tutta la fantasia che le persone tirano fuori quando si tratta di ingegnarsi, è molto bello. Scriveteci funamboli@radio24.it. C'è Paola da Roma, che ci vuole dire Paola? Prima del buongiorno. Traffico. Buongiorno Paola. Mi è piaciuta molto questa cosa del check-in degli aeroporti, che fa fare un sacco di risate agli steward e alle hostess. A me è capitato il contrario. Io partivo da Fiumicino per andare ad Alghero, avevo solo bagaglio a mano e pesava 2 kg in più, E lo steward mi ha detto: tolga qualcosa e lo metta nello zainetto, visto che avevo uno zainetto sulle spalle. Sì. E io non ci volevo credere, perché pensavo mi stesse prendendo in giro. Dico: ho solo bagaglio a mano, sposto 2 chili da una borsa all'altra. E invece è stato così. Proprio così. È rientrata nelle regole. E spostare nello zaino. È rientrata questo, nelle questo regole. Questo era per ripristinare la parità sul livello, no, di nonsense. Siamo di ognuno. Il paese della burocrazia. La regola così è stata rispettata. Viaggiare è contro natura in aereo. Non bisogna mai viaggiare in aereo, mai. Andiamo al traffico. I funamboli. Potremmo riciclare un classico. Veronica Gentili. E chi cazzo è Veronica Gentili? Eccola lì. No, ma sai perché riciclare bene, il classico? Bene con le sigle. No, perché c'era un grande classico. Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Adesso ce li abbiamo speculari. Scusate, ma su Leonardo Manera niente. No, perché vorrei... Vabbè, comunque... C'è tempo. Mandate le vostre sigle audio al 349-238-6666. Magari se mettete anche la parola funamboli. Insomma, fate voi, non vogliamo suggerire troppo. Questa volta il funambolismo era intrinseco. Veronica ci è venuta a trovare con grande sommo piacere. Sono Battista da Cavaglion Veronese. Ogni tanto, no, che mi ospitate. Ma ogni tanto vengo qui a Radio 24 perché non capisco più niente dell'Italia, no? Non sono d'accordo, anche il Partito Democratico fa festa per i 10 anni e vuole regalare agli italiani lo Ius Soli. Allora io dico, se compi anni, fa regalo a quelli del tuo partito, no? Regala solo a quello del tuo partito lo Ius Soli, no a tutti gli italiani che non lo vogliono, capisci? Mina, anche Gentili. Veltroni è il primo che vuole lo Ius Soli. Prima Veltroni diceva che voleva andare a vivere in Africa. Si vede che ha cambiato idea, non vuol più andare in Africa, vuol portare l'Africa da noi, hai capito, Mina? Ma per italiani era meglio se andava lui in Africa e non si faceva più vedere qua in Italia. Non che portava africani in Italia, portali a Capalbio extracomunitari, dove c'è tutti quei tuoi amici a sinistra snob, vediamo quello che succede, no? Perché quei di Capalbio non è veri comunisti, io rispetto per i comunisti, quei lì come il Veltroni non è comunista, è snob buonisti. Ti piace, Mina, questa definizione? Cos'è? Snob buonisti. Snob buonisti. Anche il nome non mi piace, Ius Soli, no? Mettono il nome della legge in lingua straniera per non far capire ai italiani. Latino, mette il nome latino, non si parla più neanche a latina, capisci, Mina? Ma no, ma non è. Metti il nome italiano della legge, il nome giusto è legge per favorire i stranieri a danno dei cittadini onesti, questa è, Mina. Ma scherziamo, la legge dice che se nasci in Italia puoi essere italiano, ma scherzi? Non è sufficiente nascere in Italia per essere italiani, devi anche saper parlare correttamente la lingua italiana, no? Che se io saprei che c'è qualche straniero che entra in Italia senza sapere la lingua italiana, ma io non penso che è la cosa giusta, capisci, Mino? Un conto è italiano, l'italiano può anche permettersi di non parlare giusto perché è abituato alla trasmissione anche televisiva, no? Che te sbaglia anche con tutti. Ma se è straniero, viene in Italia, deve conoscere anche italiano, e poi non basta la lingua. Capisci? Devi anche avere delle caratteristiche di carattere per essere italiano. Devi saper timbrare il cartellino e poi essere disposto ad andare a fare spesa al mercato. Devi conoscere anche cultura italiana. Devi sapere che in Italia il segreto di bellezza è fare tanta plin plin. Insomma, cose di italiani, no? Non puoi venire qui anche a pretendere. Capisci, Mina? Capito. E poi non dico che italiani ha tutte cose positive. C'è anche mafia, camorra, 'ndrangheta. Ma ormai ti sei abituato a queste cose. Si apre un'attività e non c'è nessuno di 'ndrangheta che ti minaccia. Ti sembra strano, ti sembra che non hai un'attività abbastanza importante, capisci, Mina? E poi gli extracomunitari che arriva in Italia non è cattolici e vogliono che si costruisca un moschee, che magari poi per costruire moschee dobbiamo andare a distruggere i nostri luoghi veri di culto e i centri commerciali. È per questo motivo che sono contrario alla Ius Soli, parole Battista di Cavaglion Veronese. Mino, ecco, questa è la situazione. Contro. A proposito, ma sai che Veronica c'è il referendum in Veneto? Io vorrei capire Battista se sono contrario, non vado a votare al referendum perché io non voglio autonomia della regione Veneta. Io voglio autonomia della mia frazione rispetto al mio comune, perché è troppo largo il Veneto, no? Ognuno deve difendere il proprio territorio, capisci, Mina? Milan, certo, vabbè, quando certo imparerà anche i nomi magari, no, oltre a imparare perché l'italiano. Perché lo devi provocare oggi, no, vabbè, Pacifico? Ma senso, ah, vabbè, ma dai, non anche è che tu sono affezionato. Anche però quella là, snob buonista, anche qua è Milan, no, tutti snob no buonisti. No, no, Milan. No. Però te hai imparato Mina. Gentili, ti chiamava Gentile. Tanto Gentile, tanto onesta, pare, capisci, Mina. Ah, Mina è irresistibile. Sì, è irresistibile. Pensa sempre alle sue cose, qui è comodo, a radio va a fare i viaggi aereo, no? Vai a vedere la vita vera degli italiani, Mina. Vabbè, va bene. Caro Battista, tutto bene? Come viene da Cavaion Veronese? Come rientra soprattutto? Vengo in bicicletta, capisci? Bicicletta, ma dai. Bicicletta italiana, no? Capisci? No, è che ormai Italia cosa c'è? C'è più niente in Italia. C'è il Milan e l'Inter l'hanno preso i cinesi ormai. E tutte cose hanno preso i cinesi. Ormai è tutta l'Italia dei cinesi. Se vai a fare la comunione tra un po' ti trovi il prete cinese che ti dà ostia fritta. Capisci, Mina? Ma, Battista, lei è tifoso di calcio? È Cavaion Veronese. Cavaion. Che ha fatto ieri il Cavaion? Il Cavaion, in quale serie gioca il Cavaion? Ha vinto Lega Pro. Lega Pro. Lega Pro. È in completa confusione il nostro Leonardo Manera. Allora, signori, come abbiamo iniziato, finiamo in tristezza, in mestizia. Ma no, veniamo fuori a giugno. A giugno verremo fuori. Anche sì, perché è ancora lunghissimo il romanzo che io sto leggendo. Senti in questa, che brutto in questa inno epopea sentimentale di Cardi può accadere qualsiasi cosa. Senti eh che brutta canzone, senti che ritmo orrendo, senti che metrica brutta. Vabbè. Questo è vero, l'inno dell'Inter è veramente brutto. Orrendo, secondo me. Orrendo. Vi lasciamo con questa orrenda musica nelle orecchie e vi diamo appuntamento a domani alle 9 con i Funamboli.